piano, signore, un poco poi a morte, o nulla poi cor. Se non si muore, se non si muore, un poco poi a morte.